Ad alta voce, Marco Cavalcoli legge Arancia Meccanica di Anthony Burgess, traduzione di Floriana Bossi. Undicesima puntata. Allora che si fa, eh? Quello, fratelli miei, ero io che me lo chiedevo il mattino dopo, ritto davanti a questo edificio bianco che era come attaccato alla vecchia prista, vestito con le palandre che avevo quella notte di 2 anni fa, nella luce grigia dell'alba, con una migna borsetta per le mie poche trucche personali e un piccolo poco di trucciolo gentilmente offerto dalle leziose autorità per l'inizio della mia nuova vita. Il giorno prima era stato molto stancante, per via di tutte quelle interviste registrate per il telegiornale e i flash, flash, flash delle fotografie e altre dimostrazioni di me che facevo fiasco con l'ultraviolenza e tutte quelle sguanate così imbarazzanti. E poi ero come cascato sul letto morto di sonno e loro, almeno così mi era parso, mi avevano subito risvegliato per dirmi di andarmene fuori dai piedi, di pistonare a casa e che non volevano locchiare il vostro umile narratore mai più e mai poi, oh fratelli. Così, eccomi là, molto molto presto di mattina, con quel piccolo poco di Bella Maria nella gaioffa destra e io ci facevo dlin dlin con la granfia e mi chiedevo «Allora che si fa, eh? Un po' di colazione in qualche sosto, pensai». Dato che non avevo ancora mangiato nulla per via che tutti lì dentro erano così impazienti di sbattermi fuori verso la libertà, avevo glutato solo un piccolo poco di ciò. Questa prista era in una parte della città molto squallida, ma c'erano un fracco di barini d'operai tutto in giro e io pistonai in uno di questi, fratelli. Era tutto saloppo e lezzoso con un'unica lampadina al soffitto piena di cacche moschine che tipo oscuravano quel po' di barlume. E ci stavano degli sgroppatori mattinieri che si slurpavano il cià e si magnamnavano a mo' di lupo delle orride schifose salsicce sulle trince di brombo, gnam, gnam, gnam, e poi scricciavano per averne ancora. Erano serviti da una quaglia molto saloppa, ma con dei gran tuberi tamagni, e qualcuno dei poldi a boffoni cercava di acchiapparla, e lui faceva hau, hau, hau, e lei faceva hi, hi, hi, e a vedermi lì vicini mi veniva voglia di rigettare, fratelli. Ma chiesi pane tostato e marmellata e ciò con cortesia e con la mia ciangotta da signore, poi sedetti in un angolino a glutare e mangiare. Mentre lo facevo, un migno nanerottolo pistonò dentro a vendere le gazzette del mattino, un tipo di sgarrone tutto storto e sguanoso, con delle lenti spesse montate su metallo e le palandre che avevano il colore di un budino di ribes putrefatto. Io cattai una gazzetta, con l'idea di locchiare quel che capitava nel mondo per prepararmi al tuffo in una 6 giorni normale. Questa gazzetta pareva una gazzetta del governo, perché tutti gli articoli di prima pagina dicevano la stessa trucca, e cioè che era necessario per ogni martino rimettere in carica il governo alle prossime elezioni generali, che pare dovessero avvenire tra 2 o 3 settimane. C'erano delle mottate molto sbruffone su tutto ciò che il governo aveva fatto negli ultimi tempi, dato l'aumento di esportazione e una politica estera proprio cinebrivido, e l'assistenza sociale migliorata e tutta quella sguana. Ma ciò di cui il governo si vantava di più era il modo in cui negli ultimi mesi le strade erano state rese meno pericolose per tutta la grega pacifica che passeggiava di notte, per via delle paghe migliori ai poliziotti e della polizia che era più dura coi giovani teppisti e i pervertiti e i rapinatori e quel genere di sguanate. Il che interessava piuttosto il vostro umile narratore. E sulla seconda pagina c'era una foto tutta confusa di qualcuno che mi pareva di conoscere e poi saltò fuori che quello era proprio io. Avevo un'aria molto giù e tipo spaventata, ma era per via dei flash che facevano plop plop continuamente. Sotto la foto diceva che quello era il primo diplomato del nuovo istituto statale per la redenzione dei criminali, che era stato guarito dei suoi istinti criminali in soli 15 giorni e che adesso era un buon cittadino rispettoso delle leggi e tutta quella sguana. Poi locchiai che c'era un articolo molto spaccone su questa tecnica Ludovico e su com'era intelligente il governo, eccetera. Poi c'era un'altra foto di qualcuno che mi sembrava di conoscere, ed era questo ministro degli esterni. Pareva che si fosse vantato un bel po' e che secondo lui era vicina a un'epoca felice, libera dai delinquenti, e in cui non ci sarebbe più stata paura di venire vigliaccamente assaliti dai giovani teppisti e dai pervertiti e dai rapinatori e tutta quella sguana. Così io feci «Arg!» e buttai la gazzetta per terra, ricoprendo le macchie di ciò versato e gli orribili sputacchi dei lezzoni che frequentavano quel sosto. Allora che si fa, eh? Quello che dovevo fare adesso, fratelli, era di pistonare a casa e fare la bella sorpresa al papà e alla mamma di riportare il loro unico figlio ed erede in seno alla famiglia. Allora avrei potuto sdraiarmi sul letto nella mia migna tana e snicchiare della bella musica, e allo stesso tempo avrei potuto pensare a come organizzare la mia 6 giorni. Il giorno prima l'addetto alla scarcerazione mi aveva dato una lunga lista di lavori che avrei potuto provare e aveva telefonato per me a diversi Martini, ma io non avevo alcuna intenzione di andarmene allo sgroppo così presto, fratelli miei. Prima un piccolo poco di riposo, naturalmente, e una pensata tranquilla sul letto, al suono di musica meravigliosa. Così via sull'autobus per il Center, e poi sull'autobus fino a Kingsley Avenue, dato che i Flatblocks 18A erano lì vicino. Mi crederete, fratelli, se vi dico che il cuore mi faceva clop, clop, clop per l'emozione. C'era un gran silenzio, dato che era un mattino presto d'inverno, e quando pistonai dentro l'androne non c'era nessuno, tranne i Martini e le semprocchie spalandrati della dignità del lavoro. Quello che mi sorprese, fratelli, fu il fatto che erano stati ripuliti, perché non c'erano più i fumetti di mottate sconce che uscivano dai trugli dei dignitosi lavoratori, né parti sconce del corpo aggiunte dalle matite dei malcichi sporcaccioni. E mi sorprese anche l'ascensore, perché funzionava. Venne giù ronfando quando pigiai il chiamino, e quando ci salii, ebbi l'altra sorpresa di locchiarlo tutto pulito dentro. Così andai su fino al 10° e là c'era il 10-8 come c'era sempre stato, e la granfia mi tremava quando tirai fuori dalla gaioffa la mia piccola cruccia per aprire. Ma infilai la cruccia con decisione nella serratura e girai. Poi aprii ed entrai, e dentro incontrai 3 paia di fari stupefatti e un piccolo poco spaventati che mi fissavano, ed erano il P e la M che facevano colazione, ma c'era anche un altro Martino che non avevo mai locchiato prima nella mia 6 giorni, un poldo grosso e tamagno in camicia e bretelle, tranquillo come se fosse a casa sua, fratelli, che si slurpava il cià al latte e si magnamgnava l'ovetto col toast. E fu questo Martino straniero che parlò per primo e disse: «E tu chi sei, amico? Dov'è che ti sei procurata la chiave? Fuori, prima che ti rompa la faccia. Va fuori da quella porta e bussa come si deve. E spiega quello che sei venuto a fare, e in fretta!» I miei se ne stavano lì come pietrificati, e io l'occhiai che non avevano ancora letto la gazzetta. Poi mi ricordai che la gazzetta arrivava soltanto dopo che il papà era andato a lavorare. Ma poi mamma disse: «Oh, sei scappato! Sei evaso! E ora come si fa? La polizia verrà qui a cercarti. Oh, oh, oh! Sei cattivo, sei malvagio a disonorarci in questo modo!» E, credeteci o baciatemi le bacche, si mise a far ba-ha-ha-ha-ha. Così io cominciai a cercare di spiegare, e che potevano telefonare all'aprista se non mi credevano. E tutto il tempo questo Martino estraneo stava lì tutto accigliato a guardarmi, come se avesse una gran voglia di rompermi la biffa col suo peloso e solido pugno tamagno. Così dissi: «Perché non mi spieghi tu qualcosa, fratello? Cosa stai facendo qui? Non mi è piaciuto per niente il tono con cui mi hai parlato. Sta attento. Avanti. Parla!» Era un poldo tipo operaio, molto brutto, sui 30 o 40, e ora se ne stava a locchiarmi a truglio aperto, senza sprolare una mottata. Poi il papà disse: «Siamo un po' confusi, figliolo. Avresti dovuto avvertirci che venivi. Noi si credeva che ci sarebbero voluti almeno altri 5 o 6 anni prima che ti rilasciassero. Però», disse, e lo disse con un'aria tipo lugubre, «siamo molto contenti di rivederti e di sapere che sei libero». «Questo chi è?» dissi. «Perché non dice nulla? Cosa sta capitando qui dentro?» «Questo è Joe», disse mamma. «Abita qui adesso. È l'inquilino, ecco chi è. Oh, Dio, Dio, Dio!» faceva. «Senti, ragazzo», disse questo Joe, «io so tutto di te. So quello che hai fatto e so che hai spezzato il cuore dei tuoi poveri genitori. E così? Ora saresti tornato, eh? Sei tornato a rovinargli la vita un'altra volta, è così? Ma prima dovrai passare sul mio cadavere, perché loro mi hanno trattato più come un figlio che come un inquilino». Sarei quasi scoppiato a gufare se la vecchia buriana dentro di me non avesse cominciato a risvegliare la nausea, perché questo Poldo sembrava della stessa età del mio P e della mia M, eppure era lì che cercava di mettere una granfia da figlio consolatore sulle spalle della mia mamma piangente. «Oh, fratelli!» «Ah, davvero?» dissi, e quasi stavo per liquefarmi tutto in lacrime anch'io. «Ah, è così? Beh, ti do 5 lunghi minuti per sgomberare le tue orribili, sguanose trucche dalla mia stanza!» E pistonai verso camera mia, perché questo Martino era un piccolo poco troppo lento per fermarmi. Quando aprì la porta, il cuore mi si schiantò sul tappeto, perché l'occhiai che non era più la mia stanza per niente, fratelli. Tutte le bandiere se n'erano andate dalle pareti, e questo Poldo ci aveva invece attaccato delle foto di pugili e anche quella di una squadra seduta tutta soddisfatta a braccia conserte davanti a uno scudetto tipo argento. E poi l'occhiai cos'altro mancava. Mancavano il mio stereo e il mio scaffale di dischi e il mio armadietto dei tesori che conteneva le bottiglie e la droga e 2 lucenti siringhe pulite. «Qui mi avete fatto qualche lezzosa sguanata», scricciai. «Dove sono le mie trucche personali, lurido bastardo?» Questo lo dicevo a Joe, ma fu il mio papà che rispose, dicendo: «È stata la polizia a portar via tutto quanto, figliolo. C'è una nuova legge per il risarcimento alle vittime, capisci?» Io mi sforzavo di non sentirmi male, ma il planetario mi doleva deciso e avevo il truglio così secco che acchiappai la bottiglia del latte sul tavolo e buttai giù una golata guizza. E questo Joe disse: «Che modi da maiale!» Io dissi: «Ma morì! È morta quella!» «Era per i gatti, figliolo», disse il papà tipo tristemente. Rimasero senza nessuno finché non fu aperto il testamento, e così ci fu bisogno di qualcuno che pensasse a dargli da mangiare. Allora la polizia vendette le tue cose, vestiti e tutto, per contribuire al mantenimento dei gatti. È la legge, figliolo. Tu non ti sei interessato mai molto della legge». Allora dovetti mettermi a sedere. E questo Joe disse: «Chiedi il permesso prima di sederti, ignorante d'un maleducato». Così io mi voltai guizzo e risposi con un: «Chiudi quella sporca fogna, tu!» Ma mi sentii subito male. Così cercai d'essere tutto ragionamento e sorrisi per amore della mia salute e dissi: «Beh, quella è la mia stanza, non si può negare. E questa è la mia casa. Voi cosa mi consigliate di fare, P ed M?» Ma loro avevano un'aria molto abbacchiata e mamma tremava un po', con la biffa tutta una grinza e fradicia di lacrime. E poi il papà disse: «Bisogna pensarci, figliolo. Mica possiamo sbatter fuori Joe di punto in bianco, ti pare? Vedi, Joe qui ha un lavoro, un contratto di 2 anni, cioè, e così noi c'eravamo messi d'accordo, vero Joe? Capisci, figliolo, si pensava che saresti rimasto in prigione ancora molto tempo e quella stanza era così sprecata». Si vergognava un po'. Glielo occhiavo nella biffa. Così io provai a far di sì e a sorridere dicendo: «Vedo, vedo. Vi siete abituati a stare in pace e anche ad avere un piccolo poco di Bella Maria extra. Così va il mondo. E vostro figlio è sempre stato soltanto una terribile seccatura. E poi, fratelli miei, credetemi o baciatemi le bacche, io cominciai a piangere, sentendomi molto triste per me stesso. Così il papà disse: «Beh, capisci, figliolo, Joe ha già pagato la pigione del prossimo mese, voglio dire, qualunque cosa decideremo di fare, mica possiamo dire a Joe di andarsene, vero Joe?» E questo Joe disse: «Io penso soltanto a voi due, che siete stati come un padre e una madre per me. Non sarebbe né bello né giusto che io me ne andassi e vi lasciassi in balia di questa specie di mostro che non è mai stato un vero figlio per voi. Ora piange, ma son tutte commedie. Lasciate che vada a cercarsi una stanza da un'altra parte. È l'ora che impari. Deve capire che ha sbagliato e che un ragazzo così cattivo non merita dei genitori così buoni». «Bene», dissi, alzandomi ancora tutto in lacrime. Ora so come stanno le cose. Nessuno mi vuole e nessuno mi ama. Io ho sofferto, sofferto, sofferto, ma tutti vogliono che continui a soffrire. Lo so, lo so. Tu hai fatto soffrire gli altri, disse questo Joe. È solo giusto che soffri davvero anche tu. Mi hanno raccontato tutto quello che hai fatto quando si stava qui riuniti intorno alla tavola alla sera e mica è stato divertente. Mi veniva da vomitare, te l'assicuro. Magari fossi rimasto in prigione, dissi. Cara vecchia prista, ci tornerei volentieri. Beh, ora sgombro, dissi, e non mi rivedrete mai più. Me la caverò da solo e grazie mille. Spero che peserò per sempre sulla vostra coscienza. Il mio papà disse, non prenderla così, figliolo. E la mia mamma ricominciò col suo bah, ah, ah, con una biffa tutta bistorta da far paura. E questo Joe le mise di nuovo la granfia addosso, carezzandola e facendo su, su, su e così via. E così io pistonai tipo barcollando fino alla porta e uscii, lasciandoli con la loro terribile colpa. Oh, fratelli miei! Pistonando giù per la strada tipo senza meta, fratelli, in queste palandre da sera che gli altri si voltavano all'occhiare stupiti, eppure infreddolito, dato che era una giornata bastarda d'inverno, sentivo solo che volevo star lontano da tutte queste trucche e non pensare più a nulla di nulla. Così presi l'autobus per il center, poi tornai indietro fino al Taylor Place, dove c'era la disco boutique Melodia, che avevo onorato della mia inestimabile preferenza, oh fratelli, e pareva la stessa specie di sosto di una volta, ed entrandoci mi aspettavo di locchiare il vecchio Andy, quel martino calvo e secchissimo e servizievole dal quale nei vecchi tempi avevo cattato tanti dischi. Ma ora non c'era nessun Andy, ma soltanto un gran scriccio e urlio di moschetti, malcichi e quaglie che snicchiavano qualche orribile pop disco nuovo e lo ballavano pure. E il martino dietro al bancone era poco più di un moschetto anche lui, che si crocchiava le ossa delle granfie e gufava da scardinato. Così mi avvicinai e aspettai che si degnasse di notarmi. Poi dissi, «Vorrei ascoltare la numero 40 di Mozart. Non so perché mi venisse quello nel planetario, ma mi venne». Il martino disse, «40 cosa, amico?» Io dissi, «Sinfonia. Sinfonia numero 40 in sol minore». «Oh!» fece uno dei moschetti che ballavano, un malcico con tutti i capelli sugli occhi. «Sifonia! Che sifonata! Qualcuno vuole una sifonia!» Io cominciavo a sentirmi tutto frappè dentro, ma dovevo starci attento. Così provai a sorridere al martino che aveva preso il posto di Andy e a tutti quei moschetti scriccianti e ballonzolanti. Questo martino al bancone disse «Vai in quella cabina lì, amico, e te la faccio sentire!» Così andai nel mignon box dove si potevano snicchiare i dischi prima di comprarli, e poi questo martino mi mise su un disco, ma non era la 40 di Mozart, era la Praga di Mozart, come se lui avesse tirato fuori il primo Mozart che gli era venuto tra le granfie. E questo ora mi avrebbe fatto sentire imburianato sul serio, e io dovevo evitarlo se non volevo i dolori e la nausea. Ma avevo dimenticato una cosa, che non avrei dovuto dimenticare, e che adesso mi faceva desiderare di sbaraccare e amen. Questi bugaroni di dottori, cioè, avevano così pasticciato le cose che ora qualsiasi musica fatta per le emozioni, tipo, mi faceva star male come l'occhiare la violenza. Era per via che tutti quei film sulla violenza erano accompagnati dalla musica. E ricordavo specialmente quell'orribile film nazista con la quinta di Beethoven, Ultimo Movimento. E adesso anche il meraviglioso Mozart era diventato orrendo. Schizzai fuori dalla cabina come scardinato per scappare dalla nausea e dal dolore che mi venivano addosso, e schizzai fuori anche dal negozio con questi moschetti che mi ridevano dietro e il martino del bancone che scricciava «Ehi, ehi, ehi!» Ma non ci badai, e attraversai la strada zigzag tipo cieco e poi girai l'angolo e laggiù c'era il Corova Milk Bar. Sapevo quello che mi ci voleva. Il sosto era quasi vuoto, dato che era mattina. Sembrava pure diverso, perché ci avevano dipinto delle mucche rosse e mugghianti dappertutto e il martino che c'era dietro il banco non lo conoscevo. Ma quando gli dissi un latte corretto, doppio, questo martino, che aveva una biffa magra magra e appena sbarbata, Capì al lampo quello che volevo. Portai il doppio momo corretto in uno dei piccoli cubicoli che erano messi tutti intorno a questo sosto, con delle tende che si potevano tirare per isolarsi dal sosto principale, e mi sedetti sul sedile di peluche, cominciando a sorseggiare il mommo. Quando l'ebbi finito tutto, le cose cominciarono a succedere. Avevo i fari fissi sopra un migno pezzettino di carta argentata, appartenente a un pacchetto di cancerose vuoto che stava sul pavimento, dato che la pulizia di questo sosto non era così cinebrivido, fratelli. Questo pezzettino di carta cominciò a crescere, a crescere, a crescere, e diventò così luminoso e fiammeggiante che dovetti sbattere e strizzare i fari. Si fece così grosso che diventò non solo il cubicolo dove me ne stavo io, ma pure tutto il Corova, tutta la strada, tutta la città. Poi diventò tutto il mondo, poi diventò tutto, tutto, fratelli, ed era come un mare che inondava qualsiasi altra trucca che fosse mai stata fatta o perfino pensata. Snecchiavo me stesso che facevo degli sguerzi speciali e sprolavo mottate come cari pigri morti deserti, non marcite in guise multiformi e sguanate del genere. Poi sentii come se la visione palpitasse dentro tutto questo argento, e poi ci furono dei colori come nessuno aveva l'occhiato mai, e poi l'occhiai tipo un gruppo di statue lontano, lontano, lontano, che venivano spinte sempre più vicine, tutte illuminate di sopra e di sotto da una luce fortissima, oh fratelli. Questo gruppo di statue era Dio, Zio e tutti i suoi angeli o santi, tutti lustri come bronzo, con le barbe e delle grandi ale tamagne che ondeggiavano in una specie di vento, così che non potevano essere veramente di pietra o di bronzo, e gli occhi o fari erano vivi e si muovevano. Queste grandi statue tamagne vennero sempre più vicino, finché stavano quasi per schiacciarmi, e snicchiai la mia ciangotta che faceva e sentì che mi ero liberato di tutto, palandre, corpo, cervello, nome, tutto quanto, e mi sentivo proprio cinebrivido, come in cielo. Poi ci fu uno sguerzo tipo tuono e sgretolio, e Zio e gli angeli e i santi mi locchiarono, scuotendo la testa, come per dire che ora non c'era abbastanza tempo, ma che dovevo riprovarci un'altra volta. E poi tutto ghignò e gufò e crollò, tipo, e la grande luce calda diventò fredda, e io tornai là dove ero prima, col bicchiere vuoto sul tavolo, e una voglia di piangere, e la sensazione che solo la morte era la risposta a tutto. Fu così che l'occhiai che quella era l'unica cosa da fare. Solo che non sapevo bene come farla, oh fratelli, dato che non ci avevo mai pensato prima. Nella mia piccola borsa di trucche personali c'era la mia lisca tagliagola, ma al pensiero di farmi zac sul collo e immaginando il fiotto di salsa rossa, mi venne subito una gran nausea. Avevo bisogno di qualcosa che non fosse violento, ma che mi facesse scivolare dolcemente nel sonno, e allora sarebbe stata la fine del vostro umile narratore e la fine dei guai per tutti. Forse, pensai, se pistonavo alla bibliopubblica là vicino, avrei potuto trovare qualche libro sul miglior modo di sbaraccare senza dolore. Pensai a me stesso morto e a come gli sarebbe dispiaciuto a tutti. Al P e alla M e a quello sguanoso lezzone di Joe l'usurpatore, e anche al dottor Brodsky, al dottor Brenham, e a quel ministro interno esterno e a tutti quegli altri Martini, eppure a quel fanfarone lezzoso di governo. Così schizzai fuori nel pomeriggio invernale, perché erano quasi le due come l'occhiai dal tamagno orelocco del center, il che voleva dire che ero stato in orbita più di quello che credevo. Pistonai giù per Margarita Boulevard, e poi voltai in Bootsby Avenue, poi girai un altro angolo e mi trovai davanti alla bibliopubblica. Era un bigio sosto lezzoso dove non entravo da quando ero un malcico molto, molto migno. Non dovevo avere più di 6 anni, ed era diviso in 2 parti. Una per prendere i libri in prestito e l'altra per leggerci, piena di gazzette e di roto e di sniffa di vecchi bigissimi, con le macerie che puzzavano di vecchiaia e miseria. Questi stavano in piedi ai leggii delle gazzette tutt'intorno alla stanza, tirando su col naso e ruttando e sprolando tra sé, e voltando le pagine per leggere le notizie con aria triste. Oppure stavano seduti ai tavoli a locchiare o finger di locchiare i roto, qualcuno addormentato e un paio che russavano alti suono come pochi. Sulle prime non riuscivo a ricordarmi di quello che volevo, poi con un po' di shock mi venne in mente che ero venuto fin lì per cercare un modo di sbaraccare senza dolore. Così pistonai allo scaffale con gli schedari. C'erano un mucchio di libri, ma nemmeno un titolo che facesse al caso mio, fratelli. Tirai giù un libro di medicina, ma quando l'apersi era pieno di disegni e foto di ferite e di orribili malattie ed ebbi subito voglia di vomitare. Così lo rimisi a posto e presi giù il grande libro o Bibbia, come lo chiamavano, credendo che mi avrebbe dato un po' di conforto come ai vecchi tempi della prista. Non tanto vecchia, a dir la verità, ma sembrava passato tanto di quel tempo. E barcollai fino a una sedia per leggerlo. Ma non trovai altro che un castigare 7x7 e un fracco di ebrei che bestemmiavano e si pestavano l'un l'altro. Eppure questo mi fece venire voglia di vomitare. Così stavo proprio per mettermi a piangere e un poldo molto bigio e malmesso di fronte a me disse: «Che c'è, figliolo? Che ti succede?» «Voglio sbaraccare e amen», dissi. «Sono stufo, ecco che ho. La vita è diventata troppo difficile per me». Un altro poldo bigio in lettura accanto a me fece «Shh!» senza alzare i fari da qualche scardinato roto che aveva, tutto pieno di disegni tipo tamagne e trucche geometriche. Questo mi fece chissà come l'effetto di un campanello. Quest'altro Martino disse «Sei troppo giovane per dirlo, figliolo. Ma come? Hai ancora tutto davanti?» «Sì», dissi io amaro, «tipo un paio di tuberi falsi». Questo poldo in lettura fece di nuovo «Shh!», ma questa volta alzò i fari e qualcosa scattò per tutti e due. L'occhiai chi era. Lui disse, molto altisuono, «Non dimentico mai una faccia, per Dio! Ho buona memoria! Per Dio, brutta carogna, adesso ti ho preso! Cristallografia! Ecco di che si trattava!» Era come il libro che aveva preso in prestito dalla Biblio quella sera. Denti falsi sbriciolati cinebrivido, palandre strappate, libri sciancati, tutti sulla cristallografia. Capii che facevo bene a sbignarmi la guizzo, fratelli, ma questo vecchio poldo bigio era già in piedi che scricciava da scardinato a tutti gli altri vecchi scatarroni intorno alle pareti e a quelli che sonnecchiavano ai tavoli. «È lui!» scricciò. «È quella sporca carogna che rovinò i libri di cristallografia, libri rari, libri che non si trovano più da nessuna parte!» E tutto con degli sguerzi terribili, come se questo vecchio Martino avesse davvero perso il planetario. «Un campione della brutale delinquenza giovanile!» scricciò. «Qui tra noi e nelle nostre mani!» Lui e i suoi amici mi presero a calci e mi pestarono senza pietà. Mi denudarono e mi strapparono i denti. Risero del mio sangue e dei miei gemiti. Mi mandarono a casa a calci, nudo e barcollante. Non era proprio tutto vero, fratelli, come sapete. Non era completamente spalandrato. Qualche indumento addosso ce l'aveva ancora. Io scricciai, «È stato più di 2 anni fa. Mi hanno già punito, ho imparato la lezione. Guardate lì, c'è la mia foto sui giornali». «Punito, eh?» disse un poldo bigio tipo ex militare. «Dovrebbero sterminarvi tutti. Siete un orribile flagello, altro che punizioni!» «D'accordo, d'accordo», dissi. «Ognuno ha diritto alle proprie opinioni. Chiedo scusa a tutti, ma ora devo andare!» E feci per pistonare fuori da questo sosto di vecchi scardinati. Aspirina, ecco cos'era. Sembrava di sniffare centinaia di aspirine. Aspirina del vecchio drugstore. Ma il poldo della cristallografia scricciò «Non lasciatelo andare! Glielo insegneremo noi cosa vuol dire essere puniti a questo sporco assassino! Pigliatelo!» E credetelo, fratelli, o fate l'altra trucca, 2 o 3 di questi bigi esequiandi di 90 anni per gamba mi acchiapparono con le vecchie granfie tremanti e quasi mi venne male per la sniffa di vecchiaia e di malattia che veniva da questi poldi semimorti. Allora il Martino dei Cristalli mi saltò addosso e cominciò ad allungarmi dei migni festoni deboli sulla biffa. E io cercavo di liberarmi e pistonar via, ma queste granfie bigie mi tenevano più forte di quello che avrei creduto. Poi tutti gli altri Paul di Bigi lasciarono le gazzette e arrivarono tutti zoppiconi per dare anche loro una passata al vostro umile narratore. Scricciavano trucche come «ammazzalo», «pestalo», «lincialo», «rompigli i denti» e sguanate del genere. E io l'occhiai cos'era. Era la vecchiaia che se la rifaceva con la giovinezza. Ma qualcuno di loro stava dicendo «povero vecchio Jack, lo ha quasi ammazzato quel povero vecchio Jack, questa brutta carogna», e così via, come se fosse successo ieri. Il che per loro era proprio così, immagino. Ora c'era un mare di vecchi sporchi e lezzoni che cercavano di picchiarmi con le loro deboli granfie e coi vecchi artigli, scricciando e ansimandomi addosso, ma il nostro soma dei cristalli stava davanti a tutti e m'allungava un festone dopo l'altro. E io non osavo fare una sola trucca, o fratelli miei, dato che era meglio venir picchiato che avere la nausea e sentire quegli orribili dolori. Ma naturalmente il fatto che lì si stava facendo della violenza mi dava l'impressione che nausea e dolori se ne stessero dietro l'angolo a spiare se era il caso di venir fuori e saltarmi addosso. Poi arrivò un inserviente, un martino abbastanza giovane, e scricciò: «Ma che succede? Smettetela immediatamente! Questa è una sala di lettura!» Ma nessuno gli badò. Allora l'inserviente disse: «Va bene, telefono alla polizia». Così io scricciai e non avrei mai creduto di fare una cosa simile in tutta la mia 6 giorni. «Sì, sì, sì, telefoni alla polizia, proteggetemi da questi vecchi matti!» Mi accorsi che l'inserviente non si preoccupava per niente di buttarsi nello squassaggio e salvarmi dalla furia e dalla follia di quei bigi artigli. Schizzò soltanto nel suo ufficio o da qualche parte a telefonare. Adesso questi vecchi ansimavano un bel po', e capivo che sarebbe bastato fargli flicche con un dito e loro sarebbero cascati giù tipo birilli. Però mi lasciavo tenere da queste granfie bigie con molta pazienza, coi fari chiusi, pigliandomi tutti quei deboli festoni sulla biffa e snicchiando le vecchie ciangotte sfiatate e ansanti che scricciavano «brutto porco, brutta carogna, teppista, assassino, pestalo, ammazzalo!» Ma poi mi presi un brutto festone sul naso e mi fece così male che mi dissi al diavolo» e riaprii i fari e cominciai a lottare per liberarmi, il che non era difficile, fratelli, e mi buttai scricciando in una specie di corridoio fuori dalla sala di lettura. Ma questi bigi vendicatori mi corsero dietro, rantolando come se morissero, con quegli artigli animaleschi, tutti tremanti, pronti ad acchiappare il vostro amico e umile narratore. Poi mi trappettarono e cascai per terra e mi presero a calci. Poi snicchiai delle ciangotte giovani che dicevano «Bene, basta, smettetela!» e capii che la polizia era arrivata. Marco Cavalcoli ha letto Arancia Meccanica di Anthony Burgess, traduzione di Floriana Bossi. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.